fossi io, viene lento di vagar, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Qualcosa è cambiato da venerdì, l'ultima volta ci siamo sentiti. Certo, è cambiato moltissimo, siamo in estate. Ve ne siete resi conto? La notte fra il 20 e il 21 giugno è stata la notte del solstizio d'estate, antica e rituale festività che scandiva il passaggio da un'epoca all'altra, sia nell'anno solare, sia nel lavoro dei campi, sia nel rapporto che aveva l'uomo con il cosmo. È stato il giorno più lungo, la notte più lunga, quella del solstizio d'estate, e cominciano a riaccorciarsi lentamente le giornate, quindi non era una bella data, non era un grande auspicio, non era che si aprisse un periodo fausto, eppure per l'uomo contemporaneo l'estate è il miglior periodo dell'anno. Tutti aspettiamo l'estate. Già cominciamo verso gennaio, passata l'euforia natalizia, ritorniamo al lavoro e cominciamo a fare progetti per l'estate. Li facciamo comunque, qualunque sia il nostro potere d'acquisto, qualunque sia la nostra visione della vita. Sappiamo che l'estate cambierà qualcosa. L'estate è un periodo di sollievo e naturalmente bisogna cominciarsi a organizzare per prepararsi al sollievo, quindi inizia il periodo delle prenotazioni, delle classificazioni, delle scelte, delle collazioni, delle valutazioni, delle ponderazioni, e cominciamo già a sentire i primi discorsi su cosa fai tu l'estate, io farò questo l'estate. Ci si sente, chi come me ancora non ci ha pensato, perché io non ci penso mai, ci penso all'ultimo momento, ho sempre la speranza che sopravvenga qualche problema di lavoro improvviso per cui non debba pensare all'estate, e quindi spedisco alla felicità alla mia famiglia, io me ne sto solo nelle città assolate. È il momento migliore, il momento più bello, lavorare d'agosto e di luglio è il periodo più felice. Un mese di lavoro agosto non vale sei mesi di vacanza, secondo me. Perché? Perché la città è tua, poi qua entriamo nei luoghi comuni, perché le persone sono molto più disponibili, perché c'è quella sorta di complicità per coloro che rimangono in città, ci si sente come i sopravvissuti a un cataclisma, ci si vuole più bene, si è più simpatici, la sera si esce, si hanno grandi spazi a disposizione, sia privati che domestici che pubblici, quindi è una grande benedizione, e questo lo dobbiamo, perché ringraziamo sentiti coloro che invece considerano l'estate come il momento della fuga. Si rimane ancorati a se stessi, alle proprie convinzioni, ai propri schemi, ai propri valori per tutto l'anno. L'estate ci si libera, l'estate ci si libera, gli uomini sono deboli e le donne sono improvvisamente prese da uno spirito di desiderio. Questo perlomeno dicevano gli antichi, lo diceva Esiodo, adesso cercherò la citazione esatta, ce l'ho in questo mucchio di cartacce, ma lo dicono anche i giornali, le inchieste, psicanalisti, psicologi, istituti di promozione di VIP cominciano già a segnalare l'estate come il periodo in cui sarà di moda bere questa bevanda, andrà a sicuramente vestirsi in questa maniera, il colore dell'estate, la moda dell'estate, la canzone dell'estate, il luogo di eccellenza dell'estate, dove si andrà quest'estate, ma non credo che la Costa Smeralda sarà nuovamente al centro delle attenzioni, o perlomeno che esista un nuovo sport, l'osservazione degli osservatori o delle osservatrici. Ma il primo giorno d'estate non è che si sia annunciato molto felice, io vedo i titoli giornali di questa mattina, morti e dispersi nel primo giorno d'estate, due vittime a Lecce, una donna è stata intrappolata in ascensore, un uomo annegato in auto, due moldave scomparse nel veneziano, all'Isola d'Elba non si trovano skipper, pioggia e vento ancora per 48 ore, sto leggendo il catenaccio del giornale, a Cerveteri una tromba d'aria ha travolto un surfista, è stato preso, è stato risucchiato la tromba d'aria, guardate, sinistri presagi per quest'estate, eppure tutti aspetteremo l'estate, tutti non vedremo l'ora che scatti quel famoso orologio biologico, ambientale e condiviso per cui si ferma per un attimo il mondo delle preoccupazioni e inizia il favoloso mondo dell'estate. Ehi lei, dica un po', senta, qui è tutto chiuso, che c'ha il telefono? Sì. Me lo fa piacere? Sì, certo. Mi fa il 13 26 62 4, chiede di Marcella. Grazie, eh. E dica che arrivo subito. Aspetti, e così passiamo a prendere gli altri. Se vuole salire su. Buona idea, che interno è? 4. Senta, gli dia un po' un'occhiata alla macchina, che qui a Ferragosto con tutta sta gente in giro, con le pinne, il fucile, gli occhiali. Arrivo! L'inizio del sorpasso, il 62, una lettura già da allora terrificante di quello che era Roma deserta. Negli anni 60 Roma aveva tutt'altro aspetto, ma già da allora si capiva che faceva parte del sogno di rinascere degli italiani avere un periodo in cui era lecito anche per loro staccare la spina, fermarsi per un attimo, illudersi che per 15 giorni, 10 giorni, una settimana, un mese, a seconda potere d'acquisto, potevano non occuparsi del quotidiano. Si usciva dal quotidiano. Questa uscita estiva dal quotidiano nel film di Scola fu tragica per il giovane studente Trintignant, trascinato da Gassman in una folle corsa verso un improbabile luogo della Versilia, in cui avrebbe trovato lussuriose maniere per trascorrere l'estate. In realtà lui troverà la morte, perché impropriamente abbandonò quello che era il cursus dei suoi studi e quindi si tradì quella che era la vocazione di un bravo ragazzo d'antica, non ancora contaminato dalla moda consumistica dell'estate. Ma voi come vi vedete per quest'estate? Cosa state progettando per l'estate? Cosa immaginate possa accadere di nuovo nella vostra vita d'estate? Tante estati avete passato, dalle prime estati, delle vacanze maledette da morti di fame studenti, almeno una volta funzionava così, non so se ancora così, le vacanze massacro, le si fanno con pochissimi soldi, cercando di razzolare il più possibile risorse attraverso amici compiacenti, amici degli amici, amici dei parenti, amici dei genitori, attraverso il buon cuore e la antica e marcescibile tecnica dello scrocco, passare vacanze a ben poco prezzo. Poi ci sono anche quelli che crescendo continuano a usufruire di case, seconde case, terze case, case degli amici, quelli vi capitano sempre a casa vostra con la valigia in mano per fermarsi mezza giornata, poi si fermano una settimana. L'estate è veramente il periodo del relax, il periodo che vi sentite più belli, vi sentite più disponibili. L'estate è veramente il momento degli amori clandestini o dell'illusione che si possono consumare amori clandestini. 800 24 00 24, raccontiamo la nostra estate. La famiglia Carraro di Milano villeggiava da anni a Forte dei Marmi. Il vecchio Carraro era uno dei più ricchi industriali della Lombardia e sua moglie una delle donne più insopportabili d'Italia. Il loro figlio minore Luca, invece, era il più scatenato mascalzone di tutta la Versilia. Oh Luca, un falbischero, ti sei detto mille volte che un c'entra con la Vespa in spiaggia. Senz'altro. Per quest'anno non cambiare, vengo al mare per ciullare. E come l'anno scorso c'è il pirla del bagnino, col culo già bronzato, spellato, bronzatissimo. Onore, ti pigli un colpo, figlio d'un pirla, se ti piglio ti tronco, vigliacco. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia. So che è un'iconografia ormai un po' fiacca, un po' stantia, che appartiene probabilmente alla fetta più matura del nostro pubblico, ma se c'è qualcuno che ha sotto i 30 anni, questo lo ricorda semplicemente nella rilettura magari dei filmacci degli anni 80 di Jerry Calà, che ha visto da bambino, il mito delle vacanze in Versilia, il mito della fusione delle due Italie, l'Italia del Nord e l'Italia del Sud, ormai accomunate dallo stesso grande e meraviglioso sogno di benessere economico, si incontra al centro d'Italia, in un luogo di comune fusione che è la Versilia, dove la famiglia dei milanesi e la famiglia dei napoletani, entrambi benestanti, vedono nascere l'amore dei loro figlioli. È una rilettura molto mediata dal tempo in cui fu prodotta, rispetto a quello che fu veramente il clima della rinascita vissuta anche sul battigia delle spiagge italiane, che ancora qualcuno chiamava bagnasciuga perché ancora intriso di forte nostalgia. Voglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Uno stabilimento balneare è come una piccola comunità. La gente si conosce da anni ed è legata da piccoli intrighi da spiaggia che servono a uccidere la noia e passare il tempo. Ma la famiglia Pinardi, che villeggiava al Forte per la prima volta, si sentiva leggermente esclusa. Paolo, e mangia di un supplì, eh? No, mamma, grazie, non ho fame, magari dopo. Uè, tu una pizzetta, un bicchiere di spuma. Marina! Marina! Vieni, ci sta la frittata calda calda! Tu ti chiami Marina? Io? No. Neanch'io. Marina! Vieni! Ma vieni, mi fa conosci! Ma che adesso fa aprire? Marina! Non è tua madre quella che sta chiamando? No, mia madre è in barca. E poi io mi chiamo Barbara. Ah! Bronzatissima! A me vengono veramente delle lancinanti fitte al basso ventre ad ascoltare questi reflui di estati lontane. Erano periodi che per chi li ha vissuti non erano esattamente come si vedono nei film o come rimangono nella nostalgia. Erano estati terrificanti, erano spiagge bruttissime, magari il mare era meno inquinato di quello che è oggi, ma già le fogne a scarico aperto sulla spiaggia erano il sogno di concretezza economica di ogni imprenditore. Noi già vivevamo contaminati comunque da quei collettori fognari nel quali ci intingevamo, già sapevamo che quello sarebbe stato il nostro destino. E adesso abbiamo al telefono Luca. Luca, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti, finalmente riesco a telefonare e a parlarvi. Perché è una vita che aspettava questo momento. Alla fine sì, perché ho cercato in varie discussioni molto interessanti nel passato di telefonarti. Si sente felice e sollevato adesso che può farlo? Praticamente sì. Parli più vicino al telefono però, perché la sento molto lontano. Sì, scusi, no, perché sono in viaggio e allora l'auricolare che se ne va per... E lo tenga però vicino alla bocca, sennò non sento. O si fermi, o si schianti, faccia un po' lei, purché la sentiamo bene. Preferisco fermarmi. Ecco, bravo. Allora, sì, lei sta viaggiando verso la sua estate? No, magari, no, sto viaggiando per lavoro. Comunque piacevole, perché un viaggio per me è sempre piacevole, non mi dispiace mai viaggiare. Quindi lei viaggia tutto l'anno, non è che l'estate è il momento del viaggio, come la maggior parte degli italiani? Esatto, però in quel caso lì sarà un viaggio sempre comunque di relax. Beh, non c'è niente da dire, ha chiamato tanto per chiamare. No, assolutamente. E allora dica di cosa c'è da dire. Il mio viaggio quest'anno, vabbè, permetto, mi ha lasciato poco tempo fa la ragazza, quindi sarà la mia prima estate da solo. Quindi cerca qualcuno che le lecchi le ferite dolorose provocate? Questo, assolutamente no, questo se capita sarà spettacolare comunque, ma questo assolutamente non lo cerco. Ma ha ferite dolorose o no? Quello sicuramente. Ogni volta che capita una cosa del genere, se è vera, c'è sempre la ferita. Senta, ma quando è stato accannato? Sul far dell'estate? Praticamente sì. E succede sempre, ma perché ci si lascia sempre prima dell'estate? Perché uno si prepara a quello che accadrà l'estate? Guardi, i momenti dei lasciti più cruenti sono prima dell'estate o appena passata l'estate. È preferibile quello prima dell'estate, quindi vorrei consolarla, perché il lascito dopo l'estate significa che qualcosa è accaduto, quindi lei comunque ha avuto una possibilità preventiva di non soffrire doppiamente anche per un tradimento, quindi sia contento, no? Sì, diciamo che la consolazione penso di trovare, spero di trovarla in un giro... Ma non so, sceglierò una meta italiana dove poter trovare un... Dove andrà lei? Dove va a cercare conforto e lenimento? Ma sono indeciso tra i castelli al nord Italia, per esempio la Val d'Aosta, che è stupenda, è spettacolare. Vabbè, lasci per, vado in Val d'Aosta, sì, c'è un bel clima, ma per quello che serve a lei non credo sia proprio il posto più adatto, onestamente, se mi permette. Sì, è un bel posto, ma bisogna andarci già muniti in Val d'Aosta, da solo, secondo me. Sai, è un posto in cui vanno le famiglie, coi bambini... Dipende dal tipo di attenzione che lei vorrà porre alla sua terapia. Non sono consigli che si danno alla radio, naturalmente in una radio come questa. Ci sarebbe anche da andare in Val d'Aosta e poter darle alcuni suggerimenti, ma va contro le regole della sacralità del vincolo matrimoniale altrui, quindi lasci perdere. Andiamo a un'altra alternativa. Ma guardi, perché... La ferita è separata dall'intenzione, nel mio caso dall'intenzione. Eh sì, però le serve una cura adesso, non è quella di Battiato proprio, però una cura le serve. No, quello sicuramente. Però la ferita deve guarire da sola, non deve esserci una forzatura in un posto dove trovare il succo. Guardi, si dimentica tutto, non esiste amore che non si dimentichi. È chiaro che esistono delle chimiche ma io non c'entro, chissà perché poi dico queste cose che non c'entra nulla con l'estate. Beh, glielo dico così almeno sente meglio. Ci sono delle chimiche per cui certe cose fanno male, normale, come un calcio nelle zone molli, lì per lì fa male, per un po' fa male, ma poi passa tutto, quindi sia tranquillo. Però passa meglio se uno dai motivi di rivalsa. Dunque, lei è stato accannato, quindi soffre. Se lei riesce a ricrearsi una situazione di felicità anche momentanea, anche istantanea, verso il mondo, quindi verso la persona che l'ha fatta soffrire, che la terrà sveglio giorno e notte, ha un motivo di rivalsa, quindi questa è la cura. Quindi dove andrà a cercare oltre la Val d'Aosta? Oltre la Val d'Aosta, in qualsiasi altro posto che mi sappia, oltre ad agitare con paesaggi piuttosto che un bell'arte e via dicendo, che mi sappia comunque, anche se comunque ho sofferto, che mi sappia lasciare vivo almeno un bel ricordo di tutto quello che è stato. Ma lasci per il ricordo, adesso deve dimenticare quello che è stato, se no non vive più. No, ma un consiglio, guardi, un consiglio malandrino, poi la lascio, perché mi fanno con le dita, con l'indice o medio, un segno che sembra una forbice. Ma poverino, devo un attimo. Perché non resta in città? Anche questa è un'idea. Questo, io guardi, le voglio dare un consiglio. Prova a passare almeno i primi 15 giorni di agosto in città. Potrebbe avere delle sorprese, perché non tutti gli uffici sono chiusi, soprattutto seri professionisti come art director nelle agenzie pubblicitarie, come organizzatrici di convegni, devono ancora lavorare e preparare l'estate. Molte persone rimangono sole l'estate, e l'estate la sera in città si gira come nomadi alla ricerca di un'oasi. Non è detto che l'oasi la trovi assieme a qualcun altro. Buongiorno, Elisabetta, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Milano. Brava. Le facevi i complimenti e volevo dirle che sono assolutamente d'accordo con lei. Ma con cosa d'accordo? Ho detto mille cose in contrasto. Ha ragione, allora, per sempre estate in città. Bene. Cioè l'unico momento, sono di Milano, l'unico momento in cui Milano torna vivibile. Beh, potrebbe fare un'opera buona, però ha sentito la telefonata che l'ha preceduta. Sì, adesso non voglio. Non so però il signore di dov'era. Vabbè, penso che fino a Milano ci arriva, non è che... È di Milano anche lui, sì. Era di Milano. Cioè non voglio fare adesso Radio Ruffiana stamattina, però il cuore mi si apre in questo preludio estivo della tragedia di questo signore accannato, ma poi una situazione molto semplice d'estate. Ma è d'accordo con me che probabilmente l'estate passata in città, non per fare gli alternativi, possa presentare dei momenti di fuga domestica molto più appetibile che andare in luoghi affollatissimi? Assolutamente, io è un paio di estati che passo a Milano e ripeto, ci sono, i locali sono aperti, c'è gente in giro, perché non è che è deserta come magari una decina d'anni fa. La gente è più disponibile, come diceva lei, certo, anche così a conoscersi, che a Milano non è facilissimo. Correte sempre tutti, andate di fretta, no? L'estate rallenterete un po' il passo. Assolutamente. Naturalmente, però bisogna avere la fortuna di poter andare in ferie in altri momenti. Ma giugno è un bel mese per andare in ferie, devo dire. Luglio, giugno. Anche certo, settembre è una meraviglia. A settembre tornano tutti, sono tutti arrabbiati perché hanno buttato, hanno speso i soldi e non si sono divertiti, hanno preso le sole bestiali. Nel mare c'erano le meduse, nell'albergo c'erano le zecche. La persona che si sono portati in giro per il mondo sperando in lussuose ricompense, in realtà è stata una grande delusione, tornano arrabbiatissimi. Mal disposta, file ovunque. Giusto? Sì, certo, sì. No, anch'io sono assolutamente per l'estate in città. Potremmo fare un appello insieme? No, io non posso fare appelli, mi dispiace, non è professionale. Lei appelli pure e le auguro buona fortuna, adesso non posso aiutarla anche io a riempire di... l'appello, non volevo fare un appello di lussure la sua estate. Assolutamente, io sono assolutamente occupata, felicemente occupata. Non lo dico, guardi, queste sono quelle cose che si dicono tanto per metterci una pezza sopra. Comunque va bene. No, un appello alle aziende. Ah, le aziende, sì. Alle aziende di continuare col trend che mi sembra iniziato da un po' di scaglionare le vacanze. Sì, non ho mai capito perché d'estate si ferma tutto. Qui a Roma d'estate si blocca tutto. Tutti... Quando parli con qualcuno a giugno, si rimanda sempre a settembre, perché? Luglio-agosto c'è l'estate. Non capisco, l'estate si blocca il mondo. 2 mesi all'anno, abbiamo un anno di 10 mesi. Questo ancora devo capirlo. Ma per capirlo dovrei naturalmente ingegnarmi di andare oltre un trend che ormai da decenni impera in questo paese. Ecco. Com'è grande, re? Sì. Riposiamoci, che sono stanca. Sì, ecco, mettiamo questa sede qui, Agù. Tanto non ce l'ha preso nessuno. Re, ma questi etruschi chi erano? Ma ha spiegato l'omolina, adesso non mi ricordo proprio bene che ha detto. Che ha detto? Ha detto che sono popoli antichissimi, che adesso non ce ne sono più, sono tutti morti, si chiamavano etruschi. Poi però si sono infiltrati i ciociari. Chi? Insomma, i laziali, ecco. Hanno cominciato a fare caciotte, pecorino, mozzarella, salsicce. Poi sono arrivati a Roma, hanno aperto l'osteria e trattorie. Appresso sono arrivati i marchigiani, abruzzesi. Ecco perché i romani sono tutti piccoli e tarchiati. E qua la razza lì. Allora io sono etrusca. Ammazza con te, vedi, tu sei proprio etrusca. Andiamo, re, che qui fa calda. Andiamo nella tomba. Sì, andiamo nella tomba, va. Su. Agù. Cesare dice che il mare a noi ci fa male perché fa troppo caldo. Però porca mignotta, per sentire un po' di fresco, dovevo andare a entrare nella tomba. Queste erano le mitologiche vacanze intelligenti di Alberto Sordi e della sua sbombardissima moglie. I figlioli impegnati culturalmente, naturalmente d'avanguardia, prendono i due genitori e dicono fate le vacanze intelligenti, li mandano a fare un tour nelle città d'arte, nei luoghi d'arte, e naturalmente loro rimangono malissimo. Namo! Cosa ne è stato di Augusta quest'anno che non avevamo visto per niente a Olbia? In Augusta quest'anno abbiamo fatto delle vacanze intelligenti. E che te? Che te? E come che te? Concerti, biennale, musei, opere d'arte. Tu non mi puoi capire, sei troppo ignorante. Ma io faccio tua, se l'ha capito te lo posso capire pure. No, ne, tu non lo puoi capire. Ma perché? Ma perché non ho capito manco io? Ma riportarci tua, mi ha messo la paura, perché credevo che eri diventato rocchi anziano pure te. Sta tranquillo, dottore, che se al mondo diventassimo tutti scienziati. Le casse qui ai mercati, chi scarica più? Comunque una volta ci si può provare. La provo pure io. Ciao, siamo ritornati da Augusta. Arrivederci a tutti, fate tutti le casse intelligenti. Melog 2.0. Per l'occasione abbiamo in studio Umberto Broccoli, cioè sono io, ma fa ridere. Quando il cardo fiorisce, la cicala canora, stando sull'albero l'acuto suo canto riversa fin sotto le ali, nella pesante stagione d'estate. Allora più grasse sono le capre, il vino è migliore, le donne più ardenti, ma son fiacchi gli uomini, perché Sirio brucia la testa e i ginocchi, e secco è il corpo per via della vampa. Eva Cantarella in treno, buongiorno. Buongiorno. Professoressa, l'ho regalato Esiodo, che lei sarà circondata da stranieri, inglesi, americani, spagnoli, senza scarpe che mangiano panini, immagino. Più o meno, sì. Lo so, io sono reduce da un viaggio in treno, sul far dell'estate c'era tutta gente senza scarpe che mangiava unti, panini, sì, con formaggio e wurstel. Senta, no, perché Esiodo, fortuna non mangiano ancora. Perché Esiodo dice che d'estate gli uomini sono fiacchi perché Sirio brucia loro la testa e i ginocchi? Me lo chiedo sempre. Beh, il caldo forse fa questo effetto, no? Ma non solo gli uomini, mi sembra. Il caldo appunto fa questo effetto estremo. Sì, ma le dice le donne sono più ardenti e gli uomini sono fiacchi. Le donne sono più ardenti, questo non lo so, questa è un'idea sua, è un'idea sua personale, immagino. Non, perlomeno al momento non mi vengono in mente altri riferimenti poetici nei quali si parla delle donne. Ma in generale, ricordo il suo ultimo libro, L'amore dedicato all'amore nel mondo classico, e sì. Quindi sa che l'estate veniva considerata dagli antichi un periodo molto particolare comunque. Certo, per gli antichi i passaggi di stagione erano assolutamente fondamentali e venivano celebrati, venivano in collegamento molto spesso a dei miti. Il più famoso ovviamente è quello di Proserpina in Grecia, Cerere a Roma, è la stessa storia, il passaggio delle stagioni che è segnato dal rapimento di questa ragazza che si chiama Core in Grecia, viene rapita dal dio per unificare la Grecia a Roma, dal dio che sta sottoterra e che la porta giù, e la madre Cerere che la Messi la insegue, viene rapita in Sicilia. Se non ricordo male, alla fine era una bella ammucchiata questo rituale. Come? Alla fine finiva, diciamo, in gloria, nel senso che era un rituale quasi orgiastico. Queste cose sono abbastanza, sa, molte volte le descrizioni di questi rituali non corrispondono alla verità, per esempio anche i baccanali, le descrizioni dei famosi baccanali sono molto esagerate, perché erano culti, quando si parla di questi culti naturalmente erano culti che facevano molto paura alla classe, al potere, erano culti più o meno vietati. Anche i baccanali in particolare erano vietati, e quindi le descrizioni, certamente, insomma, diciamo che quando la natura rifiorisce, perché quando questa ragazza ritorna alla luce, perché dalla madre viene riportata alla luce, allora fioriscono i campi, gli alberi, la natura, tutto si risveglia, va bene, si risveglia anche senz'altro l'amore. Quindi potrebbe essere questa una radice genetica che abbiamo, per cui l'estate non ci immaginiamo chissà cosa possa accadere di nuovo. Chi lo sa, perché poi secondo me nell'antichità la cosa era un po' diversa, perché noi l'associamo anche molto all'idea delle vacanze tutto questo, e allora nell'antichità l'idea della vacanza in agosto non c'era, perché lì c'era il divisore di classe, era tale per cui per le classi, siamo a Bologna quindi sento una voce che forse copre la mia, la classe alte facevano vacanze tutto l'anno, forse valeva per le classi meno alte, per cui l'estate era il momento nel quale, al di là della vacanza, ci si concedeva di più ai piaceri di questo genere, ci era più portati. Sì, perché mi viene a pensare, in un'epoca in cui era fondamentale il periodo del raccolto, il periodo della mietitura, l'estate chiaramente dava delle occasioni anche diverse di contatto tra le persone. Oggi, in cui i ritmi non sono dati appunto alla necessità di seguire i ritmi della terra, poco mi spiego perché, in un momento in cui sia facile spostarsi velocemente, inseguire il bel tempo e tutto, ci sia ancora questo retaggio per cui l'estate sia considerata un periodo felice. Eva Cantarella penso che sia in questo momento definitivamente sterminata dal passaggio dell'uscita dalla stazione di Bologna. L'affido al suo destino, spero felice. Ricordo il suo ultimo libro, Dammi mille baci, veri uomini e vere donne nell'antica Roma, edito da Feltrinelli. Abbiamo al telefono invece Alessandro. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Io chiamo da Ravenna, una zona vicino quindi alla costiera adriatica, famosa costiera adriatica, e la mia infanzia l'ho trascorsa nel cantiere di casa, perché i miei stavano facendo la casa a cavallo dell'81-82, sto parlando, e in quell'anno, a queste estati assolate, io bramavo un mare. Purtroppo invece dovevo stare nel cantiere a giocare quello che c'era a disposizione, no? E quando finalmente erano terminati i lavori, arrivò anche un filone cinematografico, quale Rimini Rimini. Ah già, è vero, ricordo. Certo. Che era l'altro versante, di là c'era il Tirreno, di qua c'era l'Adriatico. E quindi io ho scoperto un mondo, dicevo, come? Qui vicino, vicinissimo, c'è la California, cioè segni. Io ero impazzito, mamma, dobbiamo andare assolutamente al mare. E poi ancora cercare il motorino, perché poi gli anni si facevano avanti. E finalmente, quando potei arrivare al mare, non trovai chiaramente quello che mi aspettavo nel format cinematografico, quindi Paolo Villaggio piuttosto che le varie Sventolone, trovai più che altro una spiaggia simile a, non so, Acapulco, prima spiaggia a sinistra, il film con Gigi Andrea, ecco, queste spiagge di Cesenatico con le madri che facevano le varie insalate di riso da andare a gustare in pineta e si scambiavano la ricetta su quale fosse la migliore, ecco. Un'estate diversa da quella che era invece il format cinematografico di chi si è fatto grande negli anni 80. Beh, diciamo che esiste un luogo parallelo del nostro immaginario, che è quello che sogna le vacanze, anche in luoghi conosciuti, in luoghi vicini, dense di emozioni, dense di novità, dense di aspettative. Ma allo stesso tempo sappiamo perfettamente che il luogo comune, ribadito da tanta cinematografia, da tanta commedia italiana, da tante barzellette, luoghi comuni, esperienze raccontate tra noi, come quella che dicevo poc'anzi, del mio terrificante viaggio sul Venezia Roma, circondato da ciccioni terrificanti, ma non perché sia terrificante essere grosso, perché è brutto vedere persone enormi che si riempiono di cibo davanti a te. Io non perché abbia problemi nei confronti del cibo, ma mangiare degli intingolini con del gorgonzola spalmato sul pane, delle brodaglie marroni, dei panini ruttanti, delle cose terrificanti. C'erano questi quattro spagnoli tutti vicino a me che mi hanno sovrastato. Finalmente sono scesi verso Bologna, mi sembra, qualcosa del genere, e non vedo l'ora che si sono liberati. Hanno delle valigie enormi. Io pensavo, dico, cosa metteranno in queste valigie? Quanto saranno fuori? 15 giorni. Ecco, in questa valigia ci starebbe tutta la mia famiglia per 6 mesi. E loro per 15 giorni sono in quattro valigie enormi. E me lo immaginavo pieni di panini, di salame, di frittate, di tortillas, di gaspaccio, di cose puzzolentissime che si portavano dietro. Senti Enzo, io mi sento proprio scarico per questo viaggio. È perché sta nervoso. Ma no, è che per andare dove, scusa? A Cracovia. Sono un'altra razza. E poi la lingua, scusa. Che cos'è che andiamo a dirgli noi a quelli lì? Vabbè, allora a sto punto mandiamo tutto quanto a monte, io mi vado a rispogliare e vorrei dire che il Ferragosto me lo passo da solo a letto. E vai con tutti quei chilometri, chissà che ora arriviamo! Quando arriviamo? Ma alle 5:30 stiamo a Bolzano, alle 9:00 stiamo a Cracovia, alle 10 di sera vuoi scommettere che già te fa la prima polacca, vuoi scommettere? E poi scusa, abbiamo fatto il passaporto, abbiamo fatto il visto, abbiamo comprato i calzari di seta, abbiamo comprato i pennabiru. Ecco, io quelli lì li ho dimenticate. Ma per i biro non c'è problema, fino a Bolzano stiamo in tempo. Dici poi lingua. Tu a quelle mica gli devi fare una conferenza. Ecco un altro tipo di sollazzo estivo, forse dimenticato dalla caduta del muro di Berlino, e quindi l'Est è arrivato a casa nostra con tutte le meraviglie, i solluccheri e i drammi che seguono. Abbiamo già spesso parlato delle fate che vengono dall'Est, quanto hanno cambiato la nostra struttura sociale, quanto hanno reso vicine le nostre aspettative, quanto hanno reso vicini e felici tanti anziani che passano dal catetere all'ebbrezza e alla felicità di una ritrovata giovinezza, e quante famiglie come la mia è stata beneficata dalla felice iniezione di persone che si occupano dei tuoi figli con amore, con dedizione, che ti aiutano nelle vicende quotidiane, che sembrano essere nate nel pianerottolo accanto di casa tua, quando invece vengono da lontanissimo. Beh, questo è il contrario di questo, era nei sogni umidicci degli italiani, dei viaggi aziendali, delle vacanze organizzate nei paesi dell'est, perché girava voce per tutti gli anni 60, 70 e 80, prima della caduta del muro appunto, che lì ci fossero donne bellissime e disponibili. Ma soprattutto pensate l'infamia dell'italiano medio in quell'occasione, disposto a vendersi per una penna biro, per un collano, per un profumino comprato ai grandi magazzini. E si partiva con intere valigie piene di penne biro, collan e profumini, sperando che succedesse chissà che. Io lo ricordo, e qui faccio un coming out di cui non mi vergogno, perché appartengo a una generazione che faceva queste cose. Una gita scolastica al liceo a Praga, in cui partimmo, ma che anni saranno stati? Boh, non ricordo bene. 73, 74, 75, qualcosa del genere. Gita scolastica a tutto il liceo o tutto il ginnasio, non ricordo bene, tutti a Praga. Partimmo in treno, una cosa terrificante. E partimmo con gli zaini pieni di penne biro, di collan comprati ai supermercati, e per risparmiare i profumini facemmo delle orride misture con bottigliette vuote, perché le nostre nonne a quei tempi tenevano le bottiglie vuote del profumo, soprattutto l'acqua di colore, non si sa perché. Rimaneva un po' di profumino in fondo, noi con gli imbutini le riempimmo d'acqua e ci portammo dietro quelle, e pensando di fare chissà che. Quindi l'unico che invece riuscì a tornare a casa con tripudio carnale certificato fu il professore di ginnastica che ci accompagnava, che una sera ci accompagnò in un night. Noi stavamo lì con le nostre penne birre, non ci calcolava nessuno, lui che aveva 4 soldi in tasca, lo vedemmo ballare guancia a guancia con Entrenés, poi ci mandò in albergo e si seppe che il giorno dopo il professore aveva consumato. Oh, sapete che te dico, io me ne vado, a me mi parte pure il pulma per la Dispoli. Scusa? Ma che stiamo a scherzare? Scusa, dove sta l'hotel della Juventus? Hotel? Della Juventus. Da Juventus? Ostello! No, Otello! Allora guarda, tu vai sempre dritta di qua, va bene? Sempre dritta, a un certo punto devi forza girare a sinistra, però ti accorgi che a destra c'è come una strada, come una via, anzi è una via. Quella è via dalla Fonte dell'Olio, quella la prendi tutta, ci vai tutto, così, capito? Nada. Nada? Niente. Ah, a niente, niente. Che poi sta pure vicino a casa mia, mo perché io devo partire, sennò te ci potevo accompagnare. Devo andare a Dispoli. Devo andare a Dispoli. E accompagnala. Vabbè, andiamo però, de corsa, perché io sennò faccio tardi. Mi parte il pullman, capito? Tu mi scusa, vero? De nada. Grazie. Melog 2.0. Papà, mamma! Oh, signor! Arriva il figlio al prodigo. Ciao, Ciccino. Com'era a Londra? Una menata, guarda. A proposito, questa è Susan. Passa l'estate con noi, va bene? Ciao, papà. Ciao, mamma. Ciao, bambine. Poi, Pirlone, cerca di non mettermela incinta, questa inglesina qui. Ma stai tranquillo, Daddy. Io prendo la pillola. Daddy, oggi le ragazze moderne prendono la pillola, capisci? La pillola. Capito. Ma tu non mettermela incinta lo stesso, va bene? Ecco, capito. Avanti, scatta un bel brindisi per il ritorno del fratellone. Sì. Deficienze, vuoi smetterla di fare la gaccan con i soldi di tuo padre? Oh, Matusa, ma come? Il brother torna dopo un anno e tu fai il barbone? Vabbè, dai, fammi un prestito e te li ridò quando becco l'eredità. Sì, vuoi. Avanti, un bel brindisi al fratellone! Al fratellone! Filippo, buongiorno. Buongiorno. Lei trova che sia una dolce malinconia quella che stiamo rievocando questa mattina? Io trovo che stiamo dando fondo alla scelleratezza nazionale più triste. Comunque ognuno ha il suo punto di vista. Sì, no, per me, guardi, per me è proprio una dolce malinconia, perché io non ho, cioè io non sono un quarantenne, cioè io ho 32 anni, però per me l'estate significava su Italia 1 o sui canali, sui nuovi canali, vedere Massimo Ciavarro, i seni di Isabella Ferrari che te li sognavi fino a, me li sogno tuttora, per cui cioè, erano cose che oggi sinceramente adesso però è passata di mano, è un altro genere, non si può più dire. Adesso, no, dico, adesso si occupa di fa film impegnati, non è più quei tempi lì, è brutto ricordare questo passato. Sì, infatti sono appena diventato papà, per quello che stamattina ho sentito medita sui davanzali assieme a Nanni Moretti, quindi sono altre cose. Ah, esatto. No, però è veramente mi ha evocato tempi che non c'erano più, uniti a quelle piccole, a quei piccoli segnali quotidiani che fin dalla notte dei tempi per il sottoscritto significano vacanza d'estate. Addirittura ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, c'era un servizio su Studio Aperto sulla Riviera Romagnola, ho visto che anche l'uomo del cocco sarà attrezzato con il, non ha più il secchiello con l'acqua perché magari non è igienico. Ah, il cocco fresco. Sì, si rende conto che lei questi miti, ammesso che possono essere chiamati miti, li ha già vissuti di seconda mano, già mediati. Lei li ha visti nelle riletture dei film di Jerry Calà, che sono state fatte 20 anni dopo circa. Li vede nei servizi di Studio Aperto, che si rifà anche loro alla rilettura. È come le fonti dei classici, che ci sono sempre le riscritture, le riletture, le trascritture, e non sia mai la fonte originale. La fonte originale, le posso dire, essendoci passato, ma a me non dà nessuna nostalgia, ma questo probabilmente è un mio problema personale. Lorenzo, buongiorno. Spenga la radio che c'è l'eco. Sì, ho già spento. No, volevo semplicemente fare un pochino, un racconto un pochino della mia esperienza riguardo l'estate. Allora, sono intervenuto perché vuol dire che secondo me la domanda è un pochino mal posta. Non bisogna cercare di, come dire, realizzare tutti i propri sogni d'estate, di agosto. La mia scelta di vita è stata quella di trasferirmi da... Ma la mia domanda era vaga comunque, è l'eterna attesa dell'estate, poi ognuno ci mette dentro quello che vuole. No, è vero, però non lo so, l'estate, in estate in Italia significa agosto, comunque che sia agosto, che sia estate, comunque... Secondo me è un po', bisogna ridistribuire un po' la felicità durante tutto l'anno e soprattutto riequilibrarla. Io diciamo. Sì, ma qua io... c'è una... Scusi se la interrompo, poi prego. La lascio parlare. È chiaro, va cercata tutto l'anno. Qui c'è come un imperativo collettivo di ricerca della felicità l'estate. Dalla settimana di Ferragosto, che è il periodo più concentrato, corrispondeva nelle mie vacanze montane in Abruzzo, quando ancora esisteva casa mia, nella calata di burini romani in Abruzzo. Era peggio dello sterminio. Ciò che ha fatto il terremoto, non ha fatto il terremoto, fecero prima loro, capito? Sia nella contaminazione del territorio, nell'edilizia, nell'inquinamento acustico, nell'area inquinata delle loro SUV e via dicendo. Ecco, però in quei 10 giorni mi rendo conto questi devono essere felici, devono fare quello che non hanno fatto mai tutto l'anno, ammazzati il lavoro giustamente, e c'era un obbligo di essere felici, e essere felici significava naturalmente creare la mia infelicità, però questo è particolarmente trascurabile. Ma lei mi insegna, cioè, che proprio la rincorsa spasmodica della felicità invece non fa altro che enfatizzare lo stress, e poi cioè, come dire a un bambino dormi, non si rilassa. Ecco, è un'ansia di prestazione. Mi scusi? È come l'ansia di prestazione. Sì, esatto, sì. Diciamo che io ho vissuto essenzialmente 30 anni fra Monza e Milano, e io ho sempre aspettato l'estate per ritrovare un pochino il mio spazio, soprattutto poi per rifrequentare i miei amici dell'estate. Quando finiva agosto tornare in palazzo, in condominio, per me è sempre stato un pensiero molto traumatico. Adesso che invece sono stato all'estero 10 anni, poi sono tornato in Italia, sono andato a vivere in una città di provincia, in particolare Viterbo, dove mi sento che ho il mio spazio, mi sento molto più felice e non ho questa... Ma Viterbo ha un grande festival estivo, Caffeina, lo dico, sì, perché esatto, ci sarò anch'io, quindi è una città che invece l'estate fa qualcosa che altre non fanno, si concentra tutta l'attenzione sulla città, nessuno scappa, c'è Caffeina, bisogna stare in piazza a Viterbo, poi c'avete anche Santa Rosa, quella, sì, quella bellissima... torre luminosa che gira per la città. Non mi sono ancora amalgamato a tal punto, non la sento mia come festa, però veramente quello che volevo dire è questo, cercare un pochino di riequilibrare un po' la vita. Secondo me chi vive in città poi come Milano, però non voglio come dire dare troppe colpe a Milano, perché Milano l'estate è una meraviglia. Sì, si svuota dai milanesi, non lo so, però insomma, secondo me chi vive in città non si rende conto di quanto è avvelenato. Io di questo mi sono reso conto, diciamo, dopo l'università, quando mi sono iniziato a confrontare un pochino con i miei amici, che mi è capitato di incontrare, sì, altra gente. È giusto, guardi, le do ragione, però si renda conto che ormai siamo talmente avvelenati che questo veleno è come il fluido vitale che scorre nelle nostre vele. A me piace essere avvelenato, mi piace vivere questa vita avvelenata, e questo avvelenamento è la molla che ogni giorno mi porta a pensare. È inutile che io immagini paradisi lontani o pause estive in cui possa ritemprarmi. Io mi ritempro facendo del veleno che respiro ogni giorno fonte di ispirazione. Stefano, buongiorno. Pronto? Lei vuole darci dei consigli per l'estate? Certo, riguardante molte questo località di cui avete parlato prima, io ci stava a fatto che avete parlato anche della Val d'Aosta, e io per esempio sono un tipo che a differenza di molti altri non è statico, perché a volte sono preso molto dal girare da un paese o da una città all'altra. Ma non è statico, è bello questo termine, però dire che non le piace l'estate, quindi non è statico, mi piace, è una lettura dinamica dell'esistenza che si contrappone a una lettura estatica e quindi contemplativa, mi piace, è interessante. Sì, sì. Ovviamente si parla molto girando, perché a volte, perché senti parlare molto di cose, di queste varie folklori, queste varie pubbliche cose, località pubblicizzate, però dopo la linea c'è molto da voler muoversi, cioè, che anche che si sta lungo. Guardi, purtroppo lei non sarà statico, ma la sua voce la sento malissimo, è come fortemente corrotta la linea telefonica, sono cose che accadono, ma se accadono alle 10.56, 15 minuti, a 15 minuti dalla sigla, ahimè non posso che segarla, mi dispiace, lo faccio con grande dolore. Approfitto di questi pochi istanti per ricordare la valida opera di conforto di Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni e vi do appuntamento a domani, ancora per qualche giorno, poi non ci sentiremo mai più. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828-1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.